Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. I pomodorini di Sfera Agricola non sono solo buonissimi, ma sono il prodotto di una delle startup più finanziate nel 2019 dagli investimenti in tecnologia e in startup. Abbiamo con noi Luigi Galimberti, amministratore delegato e fondatore di Sfera Agricola, a cui do il benvenuto. Buongiorno Luigi. Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori. Ecco Luigi, allora proviamo un attimo a raccontare la storia di Sfera Agricola. Intanto, che cos'è e come nasce? Sfera Agricola nasce come idea nel 2015 e nasce appunto come startup, nasce come esercizio su carta, studiando le opportunità di mercato e il ritardo tecnologico, e sin da subito abbiamo immaginato non solo di realizzarla ma di crescere, come nel DNA delle startup. Mm-hmm. E sin da subito abbiamo pensato alla comunità di investitori in capitali di rischio per il finanziamento della stessa. Che cosa fa esattamente Sfera Agricola? Sfera Agricola a tutti gli effetti è un'azienda agricola che produce ortaggi. Solo produciamo ortaggi di qualità utilizzando la tecnologia. Utilizziamo prevalentemente una serra idroponica, che è un involucro tecnologicamente avanzato, dove l'apporto di tecnologia digitale, controllo del processo è applicato in maniera massiccia. E questo fa sì che riusciamo a produrre un chilo di pomodori, un chilo di insalate consumando 2 litri d'acqua, contro i 75 del campo aperto. Questi 2 litri vengono raccolti, nel caso di Grosseto, al 100% dall'acqua piovana e non attinti dalla falda. In più riusciamo a togliere dai pomodori, dagli ortaggi, i metalli pesanti, per cui molte donne in Italia non mangiano pomodori perché sono allergiche al nickel. Ho una cara amica che è stata giusto male qualche giorno fa perché è allergica al nickel, ha mangiato un sugo e ahimè purtroppo non è stata per niente bene, è dovuta andare in ospedale. Come fanno ad essere nickel free? Allora, intanto i pomodori sono un bioaccumulatore, accumulano dal terreno e dall'acqua i metalli pesanti, ma nel terreno e nell'acqua ci sono sempre più metalli pesanti perché arrivano sia dall'inquinamento che dai concimi e pesticidi utilizzati. Noi, utilizzando acqua piovana e utilizzando la tecnica dell'idroponica, perciò il terreno è escluso, e riusciamo di fatto a produrli senza metalli pesanti. E la seconda cosa è che non utilizziamo pesticidi, noi ci dichiariamo zero residui chimici, in qualche maniera siamo oltre il biologico. E tutto questo perché poi nasce Sfera? Perché la FAO ci ricorda che nel 2050 saremo 10 miliardi sul pianeta e avremo bisogno del doppio dell'acqua, il doppio della terra per produrre cibo per tutti. Perciò oggi, anzi forse ieri, avremmo dovuto iniziare a pensare come produrre di più consumando molto meno. Uh-huh. E questo è quello che è piaciuto agli investitori, la possibilità di rispondere a un bisogno reale dell'umanità e soprattutto poi potendo anche crescere e scalare sui vari mercati. Bravo, hai usato una parola che volevo proprio inserire nella mia prossima domanda. Il vero punto, Luigi, è quanti ettari oggi si riescono a coltivare in questa maniera e quanto è scalabile questa idea? Perfetto, allora, ricordiamo che il nostro modello di business è la prima cosa che abbiamo innovato, perché nella prima fase non c'era innovazione tecnologica, ovvero abbiamo assemblato quanto di meglio c'era sul mercato, questo sia per non aggiungere complessità nella fase iniziale, ma soprattutto pure è coerente con quello che fanno le startup, no? Del pivot. Noi siamo partiti in un modo, abbiamo raccolto i capitali, abbiamo validato il modello di business, adesso ci spingiamo a innovare la tecnologia. Uh-huh. Uh-huh. Però intanto alcune cose le abbiamo portate a casa. Certo. Il nostro modello di business è vendere pomodori. Uh-huh. Ma qual è la parte innovativa? Noi quando assistiamo quotidianamente, no? Durante la stagione estiva e primavera, che i contadini buttano i pomodori, io mi sono sempre chiesto da ragazzo, ma chi gli ha detto no di produrli? E poi ho scoperto studiando che il modello di business della maggior parte degli agricoltori è tentata vendita, loro sperano di vendere qualcosa. Riempiono i magazzini, peccato di una merce che è ad alta deperibilità. Perfetto, quando il modello è tentata vendita e con un prodotto fresco e freschissimo perdi sempre. Invece il nostro modello di business è programmazione, ovvero io oggi sto vendendo la produzione del demand 2021 planning. Quindi il demand planning è portato sull'agricoltura. Sì. Prego. Il 2021, perché il 2020 già è tutto venduto, perciò se i clienti si siedono con noi, fanno dei programmi annuali, semestrali, noi mettiamo in coltivazione il pomodoro per loro, se no non lo produciamo. Ecco, questa è proprio la cosa che è un po' disruptive. All'inizio anche i fondi, no, ci invitavano a fare il challenge con gli esperti di settore e tutti dicevano: vedrai che in Italia non si è mai fatto, non si può fare perché tu non lo sai che non l'hai mai fatto. Ecco. Come hanno reagito i buyer della grande distribuzione? Benissimo, sin da subito. E perché allora i fondi o comunque gli investitori erano così scettici? Perché nell'immaginario collettivo è una cosa sicuramente disruptive, ma se pensiamo, nel buyer, il buyer tutto il giorno che fa, soprattutto con il climate change, no, che si abbatte sull'agricoltura, perciò fa saltare quelli che sono i programmi degli agricoltori e degli accordi. Il problema dei buyer è accaparrarsi, avere la certezza del prodotto, non è più una questione di prezzo, qualità, quantità, e se ce l'ho o non ce l'ho. Allora ecco, io ho immaginato che la difficoltà del buyer fosse dover garantire la propria struttura. Dice sì, ho fatto degli accordi e li porto a termine. Ecco, la nostra value proposition, il prodotto che noi offriamo non è il pomodoro, è il servizio di fornitura, indipendentemente dalle... La garanzia che quel prodotto ci sarà, sì, scaffale quando e come era stato definito a monte un anno prima o sei mesi, sì, prima, o quando c'è stato... Quando c'è stato l'accordo. Poi che cosa abbiamo fatto? A questo, diciamo, primo livello di servizio per il nostro cliente, che è la grande, sì, distribuzione organizzata, perciò le catene di distribuzione, abbiamo accoppiato un pomodoro ad altissimo gusto, che fa sì che per il consumatore finale sia altamente gradito, ad un prezzo commisurato al benchmark di mercato. Infatti noi usciamo allo stesso livello di prezzo del pomodoro a marchio del distributore. Fantastico. Senti Luigi, che tipo di professionalità ci vogliono per una startup di questo genere? Io immagino agronomi che si scontrano con i big data, perché alla fine la tecnologia che voi utilizzate è una tecnologia che ha bisogno di raccogliere dati e informazioni dalla terra, no? La mia competenza, io non ho, diciamo, nessuna competenza, ovvero mantengo un profilo, diciamo, alto. Tu sei l'orchestratore, sei il direttore d'orchestra. Ma forse la fortuna è quella di non avere nessuna competenza specifica e riesco ad avere un approccio sulle scelte olistico, mettendo sullo stesso piano la ragione agronomica, la ragione commerciale, di gusto, ecco, tutti i fattori. E soprattutto poi, non ultimo, ambientale, perché noi non solo facciamo, diciamo, un prodotto di importantissimo, che è buonissimo, anzi noi avevamo la presunzione di fare il pomodoro più buono del mondo, in qualche maniera ci viene riconosciuto che è il più buono perché non solo soggettivamente ma oggettivamente per il grado di zucchero, le cose che porta dentro e le cose che non ha. Ma noi volevamo fare questa cosa dimostrando che in Italia con il pomodoro si possono pagare stipendi e contributi, perché noi già nel primo anno avevamo già assunto quasi 200 dipendenti, oggi siamo a 250, a cui paghiamo stipendi e contributi in maniera regolare. E non è, diciamo, banale. Non in questo mercato, quantomeno. Non nel mercato del pomodoro, perché per far uscire un margine che sostiene la struttura finanziaria, certo, dobbiamo fare salti mortali tutti i giorni perché facciamo ortaggi. E allora scusami Luigi, dopo ritorniamo un attimo sulle competenze, però mi sorge spontanea la domanda: dov'è che riuscite a spendere meno rispetto alle aziende agricole tradizionali? In nessun posto. Noi abbiamo dei livelli di costo altissimi. Mm-hmm. Infatti il nostro pomodoro costa almeno 3 o 4 volte quello di campo. Però come facciamo noi a marginalizzare lo stesso? Perché la distribuzione, pure questa è una cosa che avevamo analizzato all'inizio, c'ha due modi per guadagnare sugli ortaggi. Uno è il ricarico che applica, tamblè, e l'altro è l'indice di rotazione, è quel guadagno in quanto tempo lo porta a casa. Quando i contadini si lamentano che la distribuzione ci strozza, io pure lì, ecco, un po' polibiasimo, perché quando tu metti un pomodoro sullo scaffale e dura 6 giorni, il ricarico deve necessariamente essere alto perché deve contenere una serie di componenti, anche compreso lo smaltimento. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato sulla rotazione, il nostro pomodoro dura solo 4 ore sullo scaffale e la GDO ricarica su di noi dal 12 al 18%. Quindi riesce a ricaricare meno ma marginare di più, perché la rotazione è talmente elevata che si vendono molte singole unità sulle quali vengono applicati i margini della grande distribuzione. Questo significa che se noi vendiamo un pomodoro 3 volte a un prezzo superiore del nostro competitor, il sell out al consumatore è identico. Per perché viene assorbito il delta viene assorbito dal minor margine ma dalla maggiore rotazione da parte della GDO. Torniamo allora alle persone che lavorano con voi. Sono tutti contadini? Tutti quanti raccoglitori di pomodori? Tutti contadini di fatto, come lo sono io, ma tutti tecnici. Noi abbiamo tre profili generali. Uno è quello più basso, dove l'entry level, dove tutti iniziano da raccoglitore. Uh-huh. E la competenza è quella dell'occhio, sicuramente la passione, deve piacergli il lavoro, molto ripetitivo. Poi abbiamo il defogliatore che lavora sulla pianta e appunto fa le prime lavorazioni agronomiche, uh-huh. perché la pianta in qualche maniera è alta del pomodoro, va defogliata, va accudita. E poi c'è il carrellista che è la parte alta della pianta, sulla testa è il lavoro più delicato e sono i nostri specializzati. Da dove vengono queste persone, queste figure professionali? Allora, noi per scelta l'abbiamo presi tutti nella zona e la discriminante è la distanza dal centro della serra, perché facciamo tanti sforzi per l'ambiente che poi sarebbe vanificato dagli spostamenti in auto, certo, dei dipendenti, perciò persone. Entro 30, 40, 50, massimo 50 km dalla serra. C'è bisogno di qualche competenza particolare, di qualche conoscenza pregressa per poter lavorare in questo settore? No, assolutamente no, tranne gli specializzati e i tecnici, perché poi ci sono agronomi, biologi, chimici, ingegneri e in amministrazione, perché come tutte le aziende. Però per quanto riguarda la forza lavoro, che la maggior parte, nessuna competenza oltre la passione, una certa manualità e velocità, ecco, più la passione. Voi avete qualche brevetto, avete brevettato questa metodologia in modo tale da poterla poi, non dico tanto difendere, ma quanto diffondere su altre, da mettere a disposizione sul mercato? Allora, come dicevo prima, non c'è un'innovazione tecnologica nella prima fase, tuttavia nel 2019 abbiamo fatto almeno 20 progetti di ricerca insieme a università e altre aziende multinazionali, alcuni progetti di prodotto, alcuni di processo, e già a fine 2019 abbiamo depositato i primi 3 brevetti. Adesso ci stiamo spingendo a costruire la nostra tecnologia, sarà un unicum sul panorama mondiale, e questa sarà, io dico, cioè abbiamo una crescita graduale che è il nostro scale up, e poi c'è il salto quantico con la tecnologia. Mm-hmm. Dove vi porterà la tecnologia? Dove ti aspetti o vi aspettate che vi porterà la tecnologia? Allora, intanto la prima cosa è l'applicazione del machine learning, in modo da riuscire a guadagnare qualche punto percentuale che si riverbera sull'EBITDA, e questo ci dà ulteriore boost per la crescita. Ricordiamo sempre, facciamo pomodori, perciò trovare la quadra, riuscire a pagare tutti gli stipendi e contributi è davvero difficile. Mm-hmm. E la tecnologia ci consentirà sia di scalare, perché la soluzione che noi offriamo è unica al mondo, perciò ci sarà una crescita esplosiva a livello globale, ma la cosa più importante è la raccolta dei dati, che determinano praticamente lo sviluppo e la messa a punto. Già oggi noi siamo nati da una mia intuizione, ma adesso lo sviluppo è guidato appunto dai dati, uh-huh. Sia del mercato e sia di ordine economico finanziario. Ok. Quali dati invece raccogliete sul campo? Che tipologie di dati raccogliete sul campo che vi permettono di migliorare le prestazioni delle coltivazioni? La cosa che facciamo semplicemente è, alla prima abbiamo detto che noi non usiamo pesticidi, la cosa è vera dal lato del prodotto, perché il prodotto è residuo zero. Ovvero noi facciamo trattamenti mirati alla pianta che presenta delle patologie e il prodotto di quella pianta viene mandato in distruzione e non in distribuzione. Già all'interno della serra mappare le piante malate, perciò guardare la piantina ti fa capire se la patologia sta al centro della serra, evidentemente viene dall'alto la patologia, o se è sul corridoio, è da contatto, perciò il veicolo. Uh-huh. E per così possiamo intervenire a ridurre la causa di contaminazione. E questo fa sì che l'utilizzo degli agrofarmaci, dei pesticidi, è ridotto al minimo, e questa agricoltura di precisione. Okay. Perché come tutte le risorse vanno utilizzate, no, sempre, è proprio un'attenzione, ecco, proprio la volontà aziendale, ecco, nei confronti dell'acqua, di tutte le risorse aziendali. Perché questo tipo di azienda, un'azienda agricola, è stata dal tuo punto di vista, secondo te, una delle più baked, cioè una delle più finanziate del 2019? Perché abbiamo, secondo me, siamo riusciti a cogliere dei bisogni reali proprio del mercato. Come dice Paul Graham, il fondatore di Y Combinator, no? Bisogna costruire startup di successo su bisogni reali. Ecco. La FAO ci ricorda che siamo in emergenza. L'acqua e la terra sono davvero un'emergenza planetaria. Però i politici spesso fanno finta di dimenticarsene o ci passano sopra perché non sono problemi che li riguarderanno, visto che probabilmente non saranno seduti dove sono oggi nel 2050. Quindi come si fa a costruire o a alimentare questo bisogno? La cosa bella e interessante è che oggi, come non mai, oggi la nostra generazione dispone di tecnologie, dati e soprattutto una cosa importante, il mercato è già pronto, complice social network, l'attività di divulgazione dei media, non bisogna fare grossi sforzi. E questo che cosa significa? Che allo sforzo di qualche innovatore e visionario risponde la comunità finanziaria, il mercato è pronto e loro dovranno inevitabilmente adeguarsi e accelerare. Io credo che il cambiamento è sempre repentino, cioè un momento di inerzia, poi già che se ne parli e se ne parli sempre più, perché 4 anni fa, 5 anni fa quando siamo partiti noi di Agitech non si parlava, ecco, Oggi se ne parla tanto anche con l'esempio nostro, perché noi abbiamo dimostrato che si può fare, noi e tanti altri che stanno facendo. Certo. Ecco. Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci. Voi vendete attraverso la grande distribuzione. Vi sarà però venuto un po' il desiderio o l'idea di vendere direttamente con l'e-commerce? Sì, è una tentazione a cui guardiamo. Purtroppo noi siamo data driven. E noi produciamo tanti chili di pomodori. Lo sforzo che riusciamo a fare come su un canale distributivo come l'online equivale a una piccola GDO che porta via camion di pomodori. Ecco. Certo. Ad oggi ancora non c'è un sistema alternativo, perché poi noi facciamo un prodotto fresco e freschissimo, che, per cui la distribuzione capillare, salvo nelle grandi città, non è organizzata. Ecco, l'ultimo miglio è un problema annoso. Quando sarà risolto quello, noi saremo parallelamente online e offline. Se tu volessi dare un consiglio a chi oggi sta già lavorando in una startup, ma è ancora nella fase delle 3F, no? Family, friends and fools, cioè famiglia, amici e qualche pazzo che dà 4 lire per poter far partire il progetto, fare il passo successivo e quindi fare diventare un'idea imprenditoriale veramente un'azienda, un'impresa. Cosa bisogna fare e forse cosa non bisogna fare? Ok, io aggiungerei un'altra F che è i follower. Perché intanto utilizzare i social network come abilitatore, come validazione della propria idea e del modello di business è secondo me estremamente interessante e gratuito. Perciò raccogliere già nella prima fase iniziale dei sostenitori con cui poter parlare e dialogare sia per mettere a punto l'idea è estremamente interessante, perché all'incontro con l'investitore questo è un pezzo di validazione fatta. Vero, però è anche vero, Luigi, che voi avete una responsabilità sociale sulla quale voi avete fatto leva molto importante, che invece altri business in realtà non hanno. Mettendo in ordine, noi abbiamo fatto a Milano con delle società specializzate proprio questa analisi prima di iniziare, e sicuramente che il fatto come la politica della gestione del personale è una discriminante importante, ma non è al primo posto. Per il consumatore la prima cosa è il gusto, la seconda è comunque il rapporto qualità-prezzo, la terza è se risponde a un bisogno specifico nel caso degli allergici, certo. Non sono tutti allergici, però è implicito che se c'è una cura particolare, cibo per bambini, farà bene anche a me, anche a noi. Siamo diciamo non mi farà ma sicuramente male. Sicuramente. Ecco, allora la validazione del mercato, partire dal mercato perché troppo spesso un errore commettono gli startup è rimanere fermo sulla propria idea, invece le startup devono rispondere a dei bisogni reali, così scalano in maniera veloce. Perché dico questo? Perché possiamo scegliere di fare due tipi di aziende, o un'azienda che fa uno sforzo di vendita, un'azienda che viene comprata. Ecco, a noi ci piace definirci che siamo un'azienda che viene comprata. Era Luigi Galimberti, amministratore delegato e fondatore di Sfera Agricola, che ringraziamo ai microfoni di Radio Next. Grazie mille, Luigi. Grazie a voi, grazie a tutti i radioascoltatori. Ringraziamo Pippo dall'altra parte del vetro per averci aiutato a realizzare questa puntata e ovviamente tutti i nostri ascoltatori che sono stati con noi durante questa puntata. Come sempre, il podcast esteso sarà disponibile da lunedì sul sito di Radio 24. Questo e tutti gli altri argomenti che noi trattiamo sono sempre a disposizione sul sito della Business School del Sole 24 Ore. Pepe Moder dall'altra parte dei microfoni vi ringrazia per essere stati con noi e auguro a tutti una buona giornata. Alla prossima settimana con una nuova puntata di Radio Next.